in primo piano. Buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa. Questa mattina, come di consueto, fino alle 7.55 insieme, poi l'appuntamento con i GR bianco e nero. Tra un momento vi aggiornerò sul quesito di oggi. Vediamo dunque le prime pagine. Raffica di avvisi di garanzia, Scaglia rientra e si costituisce, salgono dunque 85 gli indagati. Il PM Capaldo in missione all'estero, Bernabé dice Telecom tranquilla su Sparkle. Questo il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che naturalmente dà ampio spazio alla condanna annullata dalla Cassazione per Mills, dunque il reato è prescritto. Sempre in primo piano la vicenda della maratona televisiva sulla sanità e delle decisioni dunque del presidente Obama in materia, ma anche la segnalazione e richiamo, avremo modo di brevemente di approfondire, di Gheddafi, che dichiara guerra santa alla Svizzera. Il caso Mills dunque in primo piano su tutti i quotidiani, oggi in edicola. Caso Mills, reato prescritto, Berlusconi dice ci sono giudici diversi da quelli di Milano, sul Corriere della Sera questa mattina. Per la Repubblica, Berlusconi, stesso titolo, reato prescritto. Insomma, i titoli si ritrovano con alcune variazioni. Vi segnalo quello di Libero, Silvio assolto, Travaglio fa appello, mentre per il Giornale è processi, vittoria di Berlusconi, schiaffo della Cassazione ai PM. La Stampa ancora, Mills, il reato è prescritto, la Cassazione cancella la condanna ma la corruzione c'è stato. Questo dunque il tenore generale. Quello che ovviamente cambia sono i commenti. Allora andrei subito a leggervene brevemente qualcuno, in modo da darvi un'idea di ciò che poi potrete ritrovare naturalmente nelle edicole. Luigi Ferrarella sul Corriere, che dice la Cassazione mette dunque il timbro definitivo sulla corruzione del testimone David Mills in due processi a Silvio Berlusconi, commessa a fine 99 nell'interesse del premier coimputato, che all'epoca era già in politica da 5 anni. È coperta oggi da prescrizione grazie alla legge Cirielli approvata nel 2005, proprio grazie alla maggioranza del presidente del Consiglio. Dunque è il corrotto teste Mills, e questa è la prima sintesi, quella di Ferrarelle appunto, è il corrotto teste Mills a cavarsela subito con la prescrizione del reato, ed è invece Berlusconi, indicato dal capo di imputazione come corruttore, a restare col cerino in mano nel suo processo in tribunale, che riprende domani a Milano dopo lo stop determinato dalla incostituzionale legge Alfano. Cerino acceso per quanto tempo? Si chiede Luigi Ferrarella. Sempre sullo stesso tema, Giuseppe D'Avanzo su Repubblica: David Mills è stato corrotto, è quel che conta, anche se la manipolazione delle norme sulla prescrizione che Berlusconi si è fatturato a partita in corso lo salva dalla condanna e lo obbliga soltanto a risarcire il danno per il pregiudizio arrecato all'immagine dello Stato. D'Avanzo, naturalmente sono passaggi quelli che vi leggo. Questa conclusione, scrive, rivela fatti decisivi. Chi è Berlusconi? Quali sono i suoi metodi? Che cosa è stato nascosto dalla testimonianza alterata dell'avvocato inglese? Si comprende definitivamente come è nato, con quali pratiche l'impero del Biscione e con quali menzogne Berlusconi ha avvelenato il paese. Questo era Repubblica. Belpietro su Libero: la Suprema Corte ha preferito applicare la giustizia all'italiana decidendo di mandare assolto l'imputato, ma al tempo stesso non discolpandolo totalmente, così tutti potranno cantare vittoria, il legale straniero, quelli del Cavaliere e persino i PM. La morale, secondo Maurizio Belpietro, direttore di Libero, è una sola: chi ci guadagna in tutto ciò, in un processo nato morto ma che resterà vivo nell'opinione polemica della politica? La risposta è semplice: gli unici che se ne avvantaggeranno sono i magistrati, come sempre da almeno 18 anni, agli italiani invece spetta pagare il conto. E il giornale che vede oggi l'articolo di fondo ovviamente del direttore Feltri, scrive: immaginiamo che molti avversari di Berlusconi siano stizziti dopo aver appreso la sentenza della Cassazione, peggio per loro. Il lettore si domanderà a questo punto che cosa c'entri il premier con il legale britannico praticamente assolto. C'entra, e come se c'entra, perché se il reato è prescritto per Mills lo sarà presto anche per il Cavaliere, che pertanto, lodo Alfano o non lodo Alfano, scrive Feltri, non dovrà presentarsi in tribunale per discolparsi. Se non c'è più il corrotto, non ci può essere più nemmeno il corruttore. cuore, con tanti saluti a chi per anni aveva invocato un verdetto esemplare nei confronti di Berlusconi, in modo che questi, con una condanna sulle spalle, fosse costretto a dimettersi da Palazzo Chigi, cedendo il posto a un personaggio meno scomodo, meno bravo a raccogliere consensi, meno attrezzato. Gli anti-berlusconiani, conclude Feltri, o meglio concludo io la lettura dei fondo di Feltri, gli anti-berlusconiani dovranno alambicarsi il cervello per ordire nuovi piani al fine di sbarazzarsi del nemico senza l'obbligo di vincere le elezioni. Infine, naturalmente i commenti sono molti di più oggi, ma cerco di darvene una sintesi. Carlo Federico Grosso sulla Stampa: ora addio a riforme di emergenza. Dunque la soluzione del processo per corruzione a carico dell'avvocato Mills sembrava dipendere in larga misura dalla risposta che in diritto si riteneva di dare a due questioni interpretative delle norme che prevedono i diritti di corruzione. La prima questione è: costituisce opinione pacifica che il reato di corruzione si realizza già con la promessa di denaro o ad altra utilità da parte del privato? Il problema è dunque cosa accade quando tuttavia all'accordo segue invece nei fatti la dazione. Quindi Carlo Federico Grosso parte dunque da un approfondimento e da una analisi della sentenza, in attesa naturalmente che escano le motivazioni. La lettura delle motivazioni, appunto prosegue Grosso, consentirà, quando sarà depositata, di verificare quale sia stato effettivamente l'insieme dei ragionamenti seguiti dalla Corte e soprattutto di valutare il peso e la ragionevolezza dell'argomentazione giuridica compiuta. Al momento è soltanto possibile prendere atto della risposta di fondo data alle questioni giuridiche che erano sul tappeto. Insomma, la sintesi questa mattina in prima sulla Stampa: la giustizia bene o male ha seguito il suo corso ed è giunta nel caso di specie al suo epilogo con un giudizio di acquisita prescrizione. La prescrizione esprime sempre un fallimento della giustizia. Speriamo, conclude Grosso, che quantomeno nel caso di specie la decisione presa serva a stemperare le tensioni ed a consentire che vengano abbandonati provvedimenti infausti quali il processo breve, il legittimo impedimento, le guarentigie per ministre ed altre cariche dello Stato e via dicendo. Questo naturalmente è, come dire, l'auspicio che conclude questa lettura. Vi ricordo che su questo tema avrete anche modo di esprimervi e di sentire naturalmente valutazioni e pareri oggi a partire dalle 9 nel consueto appuntamento di 9 in punto dedicato appunto a questa vicenda ovviamente importante, ovviamente come dire, meritevole anche di ulteriori riflessioni e chiarimenti. Questo dunque sul fronte di quello che, come abbiamo detto, è oggi il titolo sostanzialmente simile nelle diverse testate. Mills, la Cassazione dice il reato è prescritto. Bene, torniamo invece al tema che vi ho letto in apertura, l'apertura vera e propria del Sole 24 Ore, sulla vicenda dunque telecomunicazione, la raffica di avvisi di garanzia che, come vi ho anticipato, sale a 85, quindi il numero degli indagati dell'inchiesta della Procura di Roma per frode e riciclaggio nel settore delle TLC, proprio mentre Scaglia rientra e si costituisce. Ecco, per questa vicenda che è estremamente complessa e che mette in gioco interessi e società, anche una storia temporale estremamente articolata, vi segnalo il dettagliato approfondimento alle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore, che inizia opportunamente dedicando mettendo a disposizione una serie di strumenti proprio per analizzare una serie di strumenti di scenario. Quindi, che cosa sono questi meccanismi legati alle carte prepagate, quali sono gli attori in campo, quali i meccanismi secondo i quali appunto le società romane CMC e Web Wizard, poi trasferite a Londra, comprano diritti per produrre carte telefoniche prepagate da una società fantasma statunitense. E qui prosegue il racconto appunto dei colleghi che hanno realizzato questa lunga inchiesta, gli interrogatori, quindi lo stato delle indagini. Vi segnalo solamente un accenno dell'articolo, di uno degli articoli, questo è a firma di Simone Filippetti, che dice: una girandola di società, soldi, schede telefoniche che ruota intorno alla cartiera CMC, è responsabile di una presunta truffa da oltre 2 miliardi di euro e di una conseguente ipotesi di proprio fiscale. E in questa parte a causa dice proprio di Focarelli, che è uno dei protagonisti, appunto Carlo Focarelli, marketing director di CMC Italia, che, come ci anticipa la scheda, è colui che propone l'affare Funcard a Fastweb in una mail del novembre del 2002. Bene, questo per quanto riguarda quest'altra vicenda. Ecco, a proposito di letture, visto che ovviamente gli approfondimenti sono molteplici, però cerchiamo di dare un'anticipazione, una lettura su quello che accade, quali sono dunque le implicazioni, naturalmente le implicazioni in termini di indagine, le implicazioni per quello che sono le ricadute economiche. Ma vi segnalo una riflessione del vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, che dice sostanzialmente: il terremoto dell'indagine affossa la fusione con Telefonica. L'effetto principale dell'operazione telefoni puliti riguarda il futuro prossimo delle telecomunicazioni, scrive Giannini. E qui a subire un contraccolpo è l'asse Berlusconi-Letta-Geronzi. Fino a pochi giorni fa il destino di Telecom Italia sembrava segnato, gravato da 35 miliardi di debiti, con un EBITDA in calo costante, ricavi da telefonia fissa e mobile in progressivo deterioramento, margini di espansione sui mercati ridotti quasi a zero. Il non più glorioso marchio delle TLC italiane era avviato verso un matrimonio forzoso con Telefonica. Ma a questo punto, prosegue Giannini, ma a questo punto, dopo la scoperta della madre di tutte le truffe, la fusione finisce in frigorifero. Come sostiene un autorevole esponente dell'establishment del Nord, che Giannini appunto dice: solo un illuso può pensare che Telefonica faccia un'offerta pubblica su un gruppo oggetto di indagini così pesanti, costretto addirittura a rinviare la presentazione del bilancio. Risultato: le telecomunicazioni italiane resteranno ancora a lungo in un limbo indefinito, mentre i valori di borsa continueranno a svaporare. Questo era Massimo Giannini su questa vicenda. E ancora su come l'inchiesta Fastweb leghi a quella che invece è l'altro grande tema sui titoli, quindi la vicenda di Girolamo, ci viene dalla prima della Stampa. Schifani su Di Girolamo dice: elezioni da annullare. Il presidente del Senato, leggo le prime righe, chiede di rivedere l'elezione del senatore Di Girolamo. Ieri ha scritto una lettera al presidente della giunta di Palazzo Madama, Marco Follini. Il parlamentare PDL, arrivato in Senato con i voti comprati tra gli italiani all'estero dall''ndrangheta, è accusato di essere uno snodo del riciclaggio di denaro che riguarda società controllate da Telecom e Fastweb. Ancora prima di sentire insieme qual è la situazione del traffico e gli aggiornamenti, vi leggo alcune righe del commento a firma di Marcello Sorgi. Il titolo: lacrime di coccodrillo. Passeranno alla storia come le più classiche lacrime di coccodrillo le dichiarazioni indignate con cui il presidente del Senato Schifani si è impegnato ad espellere al più presto da Palazzo Madama, facendo decadere la carica, il senatore Nicola Di Girolamo. Parlava appunto come se il caso che riguarda il parlamentare truffatore, che fingendo di avere residenza in Belgio era riuscito ad essere inserito in lista con una raccomandazione del suo amico nazista Gennaro Möckbel, già in rapporti con la banda della Magliana e con il potente clan calabrese Arena, e si era poi fatto eleggere come rappresentante degli italiani all'estero. Insomma, tutto questo come se non fosse già noto nelle sue grandi linee e rubricato dagli uffici del Senato da un anno e mezzo. Marcello Sorgi, per brevità vado alla sua conclusione, scrive: sono tempi difficili per la Seconda Repubblica, non passa giorno che non salti fuori una storia di corruzione o di rapporti obliqui tra politici e criminalità organizzata. Combinazione: alla fine di questa settimana dovranno anche essere presentate le liste per le regionali. Vediamo cosa si inventano stavolta per convincerci che è impossibile che salti fuori un altro Di Girolamo. In primo piano. Il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado 3 dirigenti di Google per violazione della privacy. Al centro della sentenza un video pubblicato online nel 2006 che ritrae un ragazzo disabile preso in giro e percosso da alcuni suoi compagni di classe. Una sentenza senza precedenti che ritiene Google responsabile dei contenuti caricati in rete dagli utenti. Avete sentito, ne sono certo, gli echi di questa vicenda. Ieri è stato al centro anche di un'ampia riflessione sulla prima del Sole 24 Ore. Il tema è: Google condannato, secondo voi è un bavaglio alla rete? Questo è il quesito di oggi, questo è l'appuntamento, diciamo, su cui schierarsi a bianco e nero. Naturalmente fin d'ora sul web, su radio24.it, subito dopo il giornale radio delle 8 questa mattina con Irene Zerbini, per sentire appunto qual è il vostro pensiero e quale quello di alcuni addetti ai lavori alla questione Google condannato, secondo voi è o no un bavaglio alla rete? Questo il tema tra poco. Noi torniamo invece alla prima pagina, naturalmente, e vediamo in questi ultimi minuti di seguire anche il filo un po' delle vicende internazionali, dopo aver parlato molto d'Italia nella prima parte. La sanità, abbiamo detto, la sanità di Obama come un talk, bisticci compresi, maratona TV sulla riforma. E oggi in prima pagina il servizio di Marco Valsagna. Dunque, politica spettacolo, o meglio politica spettacolo politica, spettacolo, perdon, questa è la punteggiatura che ho sbagliato io a interpretare, o meglio politica, spettacolo. Barack Obama ha convocato ieri un evento mediatico con pochi precedenti, una maratona sulla riforma sanitaria trasmessa in diretta televisiva dalla Blair House di rimpetto alla Casa Bianca. 6 ore in cui i leader dei due partiti, democratico e repubblicano, hanno dato voce a una battaglia delle idee. L'avete sentito anche la notizia e l'aggiornamento che vi è stato dato dal GR 24, insomma, uno scontro franco, a dir poco aspro, con tanto di battute acide tra Obama e il suo ex rivale presidenziale John McCain. Barack, hai tradito le promesse, tra l'altro, ha detto il senatore al presidente. John, sei fermo alla campagna elettorale, così la risposta, o meglio una delle risposte del presidente al suo ex rivale sconfitto. Ma sempre dalla prima, le storie questa mattina, firma di Richard Lapper e William Wallace, che ci portano invece in Africa. Ci sono molti collegamenti oggi di storie africane, di storie economiche, di storie che indirizzano in qualche modo anche verso questa primavera, il grande evento dei mondiali, il catenaccio di Zuma al mondiale in Sudafrica. Oggi in prima sul Sole ci racconta come ogni settimana, nell'ambito della campagna promozionale per i mondiali di calcio che il paese ospiterà a giugno, i sudafricani vengono incoraggiati a indossare per un giorno un capo di vestiario che abbia a che fare con il calcio. Il gioviale Zuma, che non si tira mai indietro quando c'è da festeggiare, ha sfoggiato una sciarpa da tifoso dai colori vivaci sopra il suo completo presidenziale. Un accostamento, scrivono, un po' stridente. Appare anche il buon umore del leader dopo una serie di mesi difficili in cui l'alleanza politica che gli ha fatto vincere le elezioni lo scorso aprile è stata messa a dura prova. E non è, dice, l'unico problema del presidente africano. Problemi naturalmente diffusi peraltro sui fronti economici, i classici, se vogliamo, problemi di sicurezza anche in vista, ma non solo ovviamente, in vista del mondiale di calcio. In ogni caso, la soddisfazione espressa dalle autorità africane di come appunto il percorso di avvicinamento verso i mondiali che scatteranno nella prima metà di giugno proceda regolarmente. Quindi un lungo approfondimento nelle storie oltre il calcio. Zuma, il mondiale giocato in difesa, proprio mentre nelle sale, l'avete credo anche sentito come me, quindi nella comunicazione, nella promozione, esce nelle sale appunto Invictus, il film di Clint Eastwood ispirato alla figura di Nelson Mandela e in particolare, insomma, alla vicenda che nel 95 ha portato il Sudafrica da un lato a vincere la Coppa del Mondo di rugby, dall'altro soprattutto a compiere un formidabile passo in avanti sul fronte dell'integrazione post-apartheid. Ecco, Africa in primo piano anche sul Foglio di questa mattina. Sarkozy imbelletta la France-Afrique per contenere i cinesi. In queste settimane abbiamo parlato spesso delle grandi manovre, soprattutto di Cina e Brasile, per, diciamo genericamente, il controllo delle materie prime in Africa. Bene, il Foglio ci racconta della prima visita ufficiale del presidente francese, che è la prima dopo il genocidio del 94. La France-Afrique non esiste più, ha detto Sarkozy, non appartengo alla generazione della colonizzazione, ha continuato il presidente, ci racconta questa mattina il Foglio, che non ha comunque negato la necessità di affrontare e in qualche modo confrontare l'arrivo dei cinesi, che arrivano affamati di risorse e pieni di soldi. Bisogna contenerli. Così in Ruanda Sarkozy ha riconosciuto alcuni gravi errori di valutazione della Francia e ha impostato una nuova strategia basata sull'interesse comune. Altre notizie nelle relazioni estere. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Gheddafi e della sua querelle, quella che sembrava, diciamo, una querelle bilaterale con la Svizzera. Gheddafi ora proclama la jihad, guerra santa alla Svizzera addirittura, mossa molto imbarazzante per Roma e per gli altri paesi che l'hanno sdoganato. Insomma, dopo quello che sembrava, diciamo, un botta e risposta destinato a concludersi, a risolversi piuttosto brevemente, Gheddafi torna all'attacco. Retromarcia viene definito da Maurizio Coprara sul Corriere difficile da trascurare, in particolare per il governo italiano, che in questi giorni è sì in contatto con entrambe le parti, divise dal contenzioso nato dall'arresto del figlio del colonnello compiuto a Berna nel 2008, e che Roma, appunto, risulta soprattutto attiva in sede europea per difendere più Tripoli che Berna. Il ministro degli esteri Frattini ieri ha preferito non commentare. Non è facile mantenere la qualifica di amico per chi sostiene che è il caso di lanciare la guerra santa contro la Svizzera, il sionismo, contro l'aggressione straniera. E per quanto in arabo jihad significhi letteralmente sforzo, impegno, l'uomo che guida uno dei paesi, i nostri principali fornitori di gas e petrolio, sa che da noi molti associano al termine a bombe e stragi. Un'occhiata veloce in conclusione a due testate internazionali per vedere un po' quali sono, appunto, quantomeno i richiami. Dalla prima, Financial Times questa mattina, numero uno, una grande fotografia di Sarkozy al Museo del Genocidio in Ruanda, la vicenda Telecom Italia Fastweb e la crisi greca questa mattina sul Financial Times, mentre per Le Monde, e qui ci permette di sottolineare un altro tema che è presente ma non propriamente in primo piano sui quotidiani italiani, in Italia il Po sotto la minaccia di un disastro ecologico. Nella prima pagina il petrolio è stato volontariamente riversato nel fiume, e il quotidiano parigino, appunto, mette questa vicenda in primo piano proprio accanto al viaggio africano di Sarkozy. Siamo dunque arrivati alla conclusione. Vi ricordo solamente GR24 tra un momento, l'appuntamento con Bianco e Nero, appunto, sulla vicenda Google. La questione è: Google condannato, secondo voi è un bavaglio alla rete? Ci sarà con voi più tardi Irene Zerbini. Soldi e dintorni. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, eccoci insieme con Soldi e Dintorni, e questa mattina nel nostro spazio dedicato all'economia parliamo di garanzie post vendita. Quanti di voi hanno avuto a che fare in passato, vi sarà capitato probabilmente, con della merce difettosa che magari si scopre tale subito dopo l'acquisto? Il cellulare appena comprato, lo stereo con l'ingresso USB rotto, oppure spesso, soprattutto con la tecnologia, si acquista magari l'ultimo modello esposto in vetrina, il rivenditore ce lo propone, magari molto scontato, ma si scoprono dei difetti anche qua. Allora, cosa si fa in questo caso? Garanzia alla mano, scontrino, lo si fa cambiare. Sembra tutto semplice, ma non è sempre così. E allora Confconsumatori ha ritenuto necessario preparare e pubblicare un bel manuale per venire in aiuto a tutti i consumatori, proprio per far fronte a situazioni di questo tipo, quindi come far valere le garanzie post vendita, come tutelarci quando acquistiamo merci difettose, come ci comportiamo, a cosa fare attenzione. Il volume si chiama Beni di consumo e garanzie post vendita, il venditore è Servito, a cura di Maurizio Mariani, Giuseppe Barba, Fulvio Capria e l'avvocato Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia, oltre che componente dell'esecutivo nazionale di questa associazione dei consumatori. Avvocato Calì, bentornato a Soldi e Dintorni, perché ormai è un amico affezionatissimo di questa trasmissione. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi, ascoltatori. Allora, avete già presentato questo volume a Catania, questo libro farà proprio un piccolo tour in tutte le principali sedi dell'Associazione dei Consumatori di questa regione, poi però naturalmente sarà fruibile anche a tutti gli associati di questa organizzazione, vi spiegheremo poi come, ma intanto le chiedo come è nata questa iniziativa, perché pubblicare questo manuale non basta sapere che bisogna conservare lo scontrino e se dobbiamo così contestare un acquisto di una merce difettosa basta riportarla al rivenditore, avvocato? Sì, diciamo che l'idea di pubblicare un manuale su questa tematica è nata dalla constatazione che abbiamo fatto delle esperienze che avevamo presso gli sportelli dell'associazione, in cui vedevamo che molte persone si rivolgevano a noi perché l'applicazione di questa normativa sulla garanzia post-vendita stentava a decollare, se possiamo dire così, perché spesso quelli che erano i diritti il consumatore non li conosceva, spesso non li conosceva il commerciante, perché spesso noi diciamo il commerciante in alcuni casi è in mala fede, ma in alcuni casi è anche in buona fede perché neanche lui conosce questa normativa. Allora abbiamo pensato di fare questo manuale perché la prima questione è quella dell'informazione al cittadino, e quindi attraverso questo opuscolo dare tutte quelle notizie, quelle informazioni, quegli input anche dal punto di vista delle cose da fare che può essere utile. Allora, quindi come funziona la garanzia post vendita? Avvocato, intanto qual è la norma di riferimento? Partiamo proprio dall'ABC. Sì, allora la norma di riferimento è rinvenibile all'interno del codice del consumo. Ci sono alcuni articoli del codice del consumo che disciplinano la materia, diciamo che però non è stata introdotta dal codice del consumo. Già la normativa in Italia era in vigore dal 2002 con un decreto legislativo che aveva recepito la direttiva comunitaria. La garanzia è di 2 anni, quindi qualsiasi cosa un venditore possa dire, ad esempio molte volte viene mostrato un fogliettino di istruzioni all'interno della scatola del prodotto in cui magari c'è un periodo di garanzia inferiore di 6 mesi, 2 anni. Ecco, quando dicono al consumatore una cosa di questo tipo viene data un'informazione inesatta, perché quell'informazione, quello che c'è scritto in questo fogliettino è superato dalla garanzia legale, che comunque non può essere inferiore a 2 anni. Qual è l'obbligo del consumatore? Il consumatore ha l'obbligo di denunciare il vizio entro 2 anni in cui lo scopre, e comunque entro 2 mesi dal momento in cui lo scopre o da quando si manifesta questo vizio. Quindi meglio farlo subito con una raccomandata, così si mette il punto fermo della denuncia entro il termine di 2 mesi. Quindi anche qui tutto quello che si racconta spesso è bisogna denunciarlo entro 7 giorni, 8 giorni, 10 giorni, assolutamente è superato. E quindi è una cosa importante. Quindi cosa vuol dire, mi scusi avvocato, questa differenza fra i 2 mesi che lei ha citato, tempo entro il quale il consumatore deve denunciare un eventuale vizio del bene acquistato, e la garanzia che vale 2 anni? Il rivenditore ha eventualmente 2 anni di tempo per cambiare questo articolo difettoso? Sì, se si manifesta un vizio, un difetto, entro i 2 anni il consumatore ha diritto ad avere o la riparazione o la sostituzione, e quindi è chiaro, poi ha l'obbligo comunque di denunciarlo al venditore entro 2 mesi da cui lo scopre. Un'altra questione importante è quella della riparazione e della sostituzione. In prima battuta il consumatore chiede la riparazione. Questa riparazione è gratuita, mentre invece accade che quando il consumatore viene indirizzato presso dei centri di assistenza e una volta indirizzato al centro di assistenza gli viene richiesto il pagamento di una determinata cifra per la riparazione. Questo è illegittimo, la riparazione è gratuita, il centro di assistenza potremmo definirlo quello strumento attraverso cui il venditore e la casa di produttrice devono garantire al consumatore la riparazione gratuita. Certo. Avvocato, noi diamo per scontato ovviamente che stiamo parlando di merci difettose, quindi stiamo parlando di tutta quella rosa di tutele per il consumatore, e però può anche essere che un consumatore vada a contestare un acquisto al rivenditore presso la quale evidentemente l'ha comprato, sostiene che questo sia difettoso, in realtà magari si scopre che è stato rotto dal diretto interessato, no? È stato danneggiato dall'acquirente. In questo caso naturalmente anche il rivenditore ha tutto il diritto di attivarsi per poter dimostrare che all'origine l'articolo non fosse difettoso. Come si risolve eventualmente una situazione di questo tipo? È chiaro. chiaro che se il bene è difettoso perché è stato, diciamo, danneggiato, è caduto a terra per colpa del consumatore, è chiaro che il consumatore in questo caso non può invocare nessuna tutela. Però è altrettanto interessante. No, ma magari se ci si prova, perché poi, ecco, sapendo che abbiamo tutte queste tutele, magari uno tenta di andare anche a dimostrare che l'articolo fosse danneggiato all'origine. Sì, chiaro, questo in un'eventuale controversia sarà poi in un eventuale anche giudizio, in un'eventuale causa, sarà eventualmente un tecnico nominato dal giudice a stabilire se quel difetto, se quel guasto è riconducibile a quello che è un vizio del bene oppure se è riconducibile a una responsabilità del consumatore che, per esempio, come dicevo prima, lo ha rotto perché gli è caduto a terra. È un tema che si presta a molte considerazioni, peraltro. Mi piacerebbe, avvocato, che ci spiegasse anche il concetto del cosiddetto difetto di conformità, quando non solo un bene acquistato è difettoso, ma quando anche non corrisponde alle nostre aspettative. Sì, perfetto, questa è la cosa, diciamo, importante introdotta dalla normativa, perché noi tutti siamo portati a pensare che la questione sia quella del difetto del bene, cioè che la garanzia legata al difetto. Invece, sin dalla direttiva comunitaria è stato introdotto questo concetto. Il difetto di conformità comprende anche il vizio, il difetto del bene o il guasto, ma è una, diciamo, una portata più ampia, perché è riferito al fatto che il consumatore ha diritto di avere venduto il bene conforme a quello che gli era stato promesso in vendita. Quindi se io acquisto o magari in pubblicità. Perfetto, oppure in pubblicità. Quindi se le caratteristiche del bene, se il bene non corrisponde a quelle aspettative che mi erano state prospettate dal venditore o in pubblicità al momento dell'acquisto, e allora anche in questo caso si può invocare la normativa sulla garanzia e quindi sul difetto di conformità, e quindi in questo caso posso avere diritto, ad esempio, di avere sostituito. Avvocato, io non ho più tempo purtroppo, però vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che questo è un volume che è di una 25ina di pagine, scritte anche molto grandi, per cui non è niente di improponibile anche per la lettura. C'è tutta la tutela che riguarda i beni acquistati in saldo, i beni usati, anche questo è un aspetto molto importante. Possiamo andare sul sito di Conf Consumatori e scaricare questa guida eventualmente, rapidissimo, avvocato? Sì, è possibile. Benissimo. È già sul nostro sito online, quindi si può scaricare in formato PDF, chiunque vuole può farlo. Benissimo, grazie. Inoltre, oppure si può, presso le nostre sedi, si può ritirare il cartaceo gratuitamente. Esattamente, chiunque. Questo non l'abbiamo ricordato. Grazie per essere stato con noi, io vi saluto. A Salvadanaio alle 12 parliamo oggi di polizze dormienti. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. E allora benvenuti questa mattina da Irene Zerbini. Alessandro Milan tornerà la settimana prossima. Il sondaggio: Google è stato condannato, una sentenza che ha fatto il giro del mondo. Secondo voi è un bavaglio alla rete? Il punto di partenza all'inizio della trasmissione, la risposta sì, sta registrando il 78% contro il 22% dei no. Ma potete continuare fino alle 13 a votare sul sito www.radio24.it oppure www.ilsole24ore.it. Potete anche partecipare alla nostra trasmissione naturalmente tramite SMS 349-238-6666, questo il numero. Una sentenza che è stata criticata, si è detto la censura preventiva del materiale di internet è impossibile, peccato che i giudici non l'abbiano mai preteso. È stata una semplificazione giornalistica fino a questo punto, che rende certo il messaggio più trasmissibile, ma che non fa onore alla verità. Cercheremo dunque di dare un contributo di chiarezza. Saluto prima di tutto i miei ospiti di oggi. Paolo Nuti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. È presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider. Edoardo Segantini del Corriere della Sera, che ieri dalle colonne appunto del Corriere della Sera ha sostenuto la sentenza del giudice italiano Oscar Maggi. Buongiorno Edoardo. Buongiorno a tutti. E Stefano Rodotà, ex garante per la privacy. Benvenuto anche a lei. Buongiorno. Vorrei partire con qualche elemento, proprio perché è un tema complesso. Siamo all'inizio di un tentativo di regolare o forse di mettere, secondo alcuni altri, un bavaglio alla rete dovuto proprio alla novità del fenomeno e all'immensa quantità di dati che in rete vengono gestiti. Vorrei partire dando voce a Marco Pancini, responsabile delle relazioni istituzionali di Google Italia, per sentire da lui come l'azienda abbia accolto questa sentenza. Siamo molto dispiaciuti perché tre nostri dipendenti sono stati condannati da un giudice qua a Milano per un atto che loro non hanno commesso, per un atto illecito commesso da terzi. C'è un principio molto chiaro e molto forte: gli internet service provider sono responsabili per i contenuti illeciti soltanto nella misura in cui, una volta che gli sono stati segnalati, non li hanno rimossi. Quello che invece noi abbiamo fatto proprio in questo caso, rimuovendo il video. Lo scenario che apre questa decisione inquietante è per la libertà di espressione in rete, per internet come lo conosciamo, e per questa ragione e anche e soprattutto per i nostri tre dipendenti abbiamo deciso che faremo appello. E non sono nemmeno state depositate ancora le motivazioni della sentenza, solo a quel punto potremo capire completamente cosa Oscar Maggi, cosa il giudice del Tribunale di Milano volesse sottolineare quando ha condannato appunto in primo grado i tre dirigenti di Google, attenzione, per violazione della privacy. Praticamente, Stefano Rodotà, lei che è l'ex garante per la privacy, di che cosa si sarebbero macchiati? Qual è il reato compiuto? Beh, qui avere messo in circolazione dei dati che sono sensibili, come si usa dire, cioè riguardano una condizione particolare, quella di disabilità, che già di per sé qualcosa meritevole di una tutela più forte rispetto alle altre informazioni personali, averlo fatto senza il consenso della persona interessata e averlo fatto mettendo a disposizione di una larghissima platea questo tipo di informazione. Quindi, da questo punto di vista, i riferimenti alla normativa sulla privacy certamente sono possibili. Il problema che si apre, lei ha ricordato gentilmente i molti anni che io ho trascorso come presidente dell'autorità garante, noi ci siamo sempre preoccupati di due cose: da una parte di non trasformare il nostro lavoro in quello di censori e dall'altra di trovare il giusto equilibrio tra i diversi valori in campo, come si dice. E semplifico molto: un pubblico ministero che ha istruito questa vicenda ha commentato due giorni fa dicendo che il diritto alla dignità della persona ha prevalso sul diritto di iniziativa economica privata. Un'affermazione molto corretta che mi è molto cara, perché questo è scritto nell'articolo 41 della Costituzione. E tuttavia, quando noi affrontiamo un problema come questo, dobbiamo ricordare che c'è un terzo interesse da prendere in considerazione, che è quello del diritto alla manifestazione del pensiero, cioè questa libertà di espressione che certamente è trasformata da uno strumento come internet, ma che non può non essere presa in considerazione. Lo dico proprio sulla base dell'esperienza Chiaro. Che ho fatto all'ufficio del garante. Non è un vecchio problema, non è un problema nuovissimo. Tutte le volte che si estende il sistema dei mezzi di comunicazione di massa c'è ci si trova di fronte a questa La censura è stata sempre la risposta un po' più sbrigativa. Per carità, non voglio dire che ci siano intenti censori, lei ha detto giustamente aspettiamo questa sentenza, le motivazioni della sentenza, perché ci sono alcuni aspetti importanti da precisare. Uno è sicuramente l'assoluzione, cioè non è stata solo una sentenza di condanna, ma è stata anche una sentenza sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione e viene sottolineato dall'avvocato stesso di Google Italia, cioè Giuliano Pisapia, questa assoluzione fa sì che non si possa parlare di censura preventiva. Questo non è stato richiesto dai giudici, perché avessero avuto ragione i PM su tutta la linea, ricorda Pisapia, ci saremmo in quel caso trovati di fronte a una sorta di obbligo di censura preventiva verso qualsiasi contenuto da mettere in rete. In questo caso si profila uno scenario invece leggermente diverso, eppure naturalmente gli operatori della rete non sono contenti, e chi in questo settore lavora. Per questo ora vorrei sentire anche il presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider con noi, Paolo Nuti. E noi non siamo sceriffi, non possiamo mettere il bavaglio alla rete, avete dichiarato. Cosa intendeva? Beh, molto semplice. Se qui bisogna stabilire, adesso per entrare proprio nel merito del discorso privacy, qui bisogna capire se il titolare del trattamento è l'utente finale che fa il filmino e lo mette in rete, o se il titolare del trattamento è il fornitore del servizio. Perché se il titolare del trattamento fosse il fornitore del servizio, sarebbe lui tenuto a raccogliere il consenso di tutti gli interessati, solo che questa cosa è fisicamente impossibile. Quindi se noi dovessimo assoggettare la fornitura di un servizio tipo appunto YouTube al trattamento, al consenso, al trattamento da parte di tutti i soggetti ritratti, il servizio non potrebbe essere fornito. D'altro canto, se invece fossimo chiamati a fare una valutazione di massima noi sulla licità o meno del trattamento che in quel momento ci viene richiesto dall'utente nella pubblicazione del filmino, verremmo noi sostituiti a quello che è l'autorità giudiziaria. Quindi noi non siamo giudici, lei sta dicendo noi non siamo sceriffi, in più è fisicamente impossibile. Edoardo Segantini dalle colonne del Corriere della Sera ieri dice no, non è impossibile, costa, ma appunto Google per esempio è un colosso che guadagna 6-7 miliardi di dollari. E dunque Segantini, nessuno vuole mettere il bavaglio a internet, precisa lei, però controllare i contenuti è giusto e possibile. Com'è possibile? Non c'è contraddizione in quanto afferma? No, a me pare che intanto da questa vicenda emerga il tema della responsabilità, insomma quello che diceva anche Nuti prima. Questo è il grande tema che emerge qui, come anche in un'altra vicenda, quella in cui il Tribunale di Roma in un'ordinanza aveva ingiunto a YouTube del gruppo Google di rimuovere alcuni spezzoni del Grande Fratello. A me pare che è una grande novità questa della responsabilità di Google. È un tema che emerge, credo, insomma, da entrambe queste vicende. E secondo me quello che bisogna evitare è, come dire, l'estremismo, no? Cioè da una parte quella di coloro, no, no, non è certo il caso di questa discussione di stamattina, ma poi sa le posizioni che si leggono sui blog eccetera sono più da ultras, sono più estreme, no? Quindi evitare l'alternativa tra imporre a Google, pensare di imporre a Google i doveri dell'editore, perché editore Google non è, è quello di dire no, qui il bavaglio, cioè come dire violare il mito fondante di internet, no, per cui una cosa immutabile, qui non si tocca niente perché sennò si lede. Ecco, tra questi due estremi, secondo me, ma insomma secondo molte persone, ci sono delle alternative. Ora, degli interventi vorrei, possibili. Vorrei solo aggiungere una cosa. L'altro giorno, ieri, io riportavo l'opinione sul mio giornale, sul Corriere della Sera, riportavo l'opinione di Antonio Pilati dell'Antitrust, che diceva, diceva una cosa interessante, diceva secondo me rispetto al sto parlando del caso romano, quello dell'ordinanza che impone il ritiro. Sì, c'è una differenza. Dico, in un caso come questo si andrà sempre di più verso un negoziato privato, diciamo, tra soggetti, ma questi sono soggetti forti. Il tema è quando invece sono in ballo soggetti deboli come questo povero ragazzo che si è trovato messo alla berlina. Ecco, qui bisogna veramente fare uno sforzo collettivo di trovare delle regole nuove, secondo me. Regole nuove, dunque un settore che manca di norme precise un po' in tutto il mondo, una sentenza interessante comunque, che sia che la si approvi o meno, contrastatissima e che ha fatto il giro del mondo proprio perché per la prima volta si richiama questo colosso californiano che in genere richiede, esige e ottiene di essere giudicato secondo le regole della California, dove c'è il quartier generale, non secondo le normative degli stati in cui opera, si richiama alla responsabilità. Per aver pubblicato il video? No. Forse c'è stato un atto omissivo, cioè forse c'è stato un ritardo dal momento della segnalazione del contenuto del video al ritiro o una violazione della privacy che si configura in altro. Siamo ancora in attesa delle motivazioni della sentenza. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Rieccoci insieme. Il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado 3 dirigenti di Google per violazione della privacy. Al centro della sentenza un video pubblicato online nel 2006 che ritrae un ragazzo disabile, non down, come è stato per anni ripetuto dai giornali. La famiglia ci tiene a questa precisazione. Un ragazzo autistico preso in giro e percosso da alcuni suoi compagni di classe. Una sentenza senza precedenti che ritiene Google responsabile dei contenuti caricati in rete dagli utenti. C'è chi invoca maggiori controlli appunto sui contenuti immessi in internet e chi invece teme il rischio di censura e di limitazione della libertà. Secondo voi questa sentenza mette un bavaglio alla libertà della rete? Votate sul sito www.radio24.it. A questo punto i sì sono al 77%, i no al 23%. Si può continuare a votare fino alle 13. Edoardo Segantini, dunque, lei sostiene che qualche controllo è comunque possibile e doveroso. È un giocattolo cresciuto a dismisura, questo di Google. Dicono però, non puoi ritenere responsabile di chi ha costruito un muro, per esempio, il fatto che su questo muro poi appaia una scritta offensiva. Sì, conosco questa come altre metafore, qui però rimane un punto, insomma, una sentenza si rispetta, cioè non è come un router che tu lo puoi collocare, che gode dell'extraterritorialità. E quindi cioè, questo è un primo punto. Il secondo punto è che vengono giustamente valorizzati, viene sottolineato il valore dei contenuti generati dagli utenti e quindi si dice non vorremmo mettere un limite, assolutamente no, però la legge bisogna che sia fatta rispettare anche sul terreno virtuale. È difficile, bisogna trovare gli strumenti, insomma, nessuno ha... Ma gli strumenti devono essere per forza di natura penalistica o potrebbero essere per esempio un codice di condotta? Stefano Rodotà. Io purtroppo ho avuto un'interruzione sul collegamento, avevo sentito quello che diceva Edoardo Segantini richiamandosi all'intervista di ieri di Antonio Pilati. Come Paolo Nuti sa, io sono tra quelli che ha cercato di smontare questo meccanismo molto semplificato, la rete ha le sue regole che si dà da sola e risolve da sola qualsiasi problema. L'approccio è più complicato, nel senso che è vero, si dice l'espressione dobbiamo lavorare a diversi livelli e con diversi attori. La prospettiva è quella non di norme di tipo repressivo, ma quella che io chiamo una costituzione per internet, e dobbiamo stare anche attenti quando usiamo alcuni strumenti di quelli che possono essere i cosiddetti effetti indesiderati. Mi spiego. Molti insistono sulla necessità e sulla possibilità tecnica da parte di Google di fare dei potenti, di avere, mettere a punto potenti strumenti di filtraggio. Ci rendiamo conto di quanto aumenterebbe il potere di Google come grande censore mondiale nel momento in cui gli fosse affidato questa specie di compito istituzionale di garantire che Facebook, YouTube siano puliti? Ecco, qui dobbiamo cioè stare chi molto teme attenti. Il Grande Fratello in realtà cadrebbe proprio nel rischio Grande Fratello. Ora purtroppo il tempo a disposizione non è moltissimo, ma merita un approfondimento la vicenda personale, umana, parallela, che ha generato poi questa sentenza che ha fatto il giro del mondo. Questo ragazzo che è stato aggredito nel 2006 e l'aggressione è stata poi pubblicata all'interno di Google Video, attenzione, nella sezione video più divertenti, questo video è rimasto per 2 mesi, dall'8 settembre al 7 novembre. La famiglia del ragazzo e l'associazione Vivi Down, che era richiamata nel video, avevano sporto denuncia contro Google e contro i ragazzi. Cos'è successo nel frattempo? Visto che in questi commenti estremistici, come sono stati definiti, molti hanno ricordato i responsabili sono solo questi ragazzi, a loro non succede niente, invece si condanna Google. Cos'è successo in realtà a questi 4 ragazzi? Lo ricorda proprio il padre dell'aggredito, che dice: in questi anni ci siamo frequentati, hanno lavorato in una comunità per ragazzi disabili, hanno perso un anno perché sono stati bocciati, e abbiamo registrato una grande maturazione, un messaggio di grande civiltà. Ieri abbiamo sentito proprio la madre di uno dei condannati che commentava questo clima di cooperazione che si è creata con la famiglia dell'aggredito. È stata una cosa molto bella che ci ha sostenuto in tutto il percorso, perché poter parlare, poter stringere la mano al papà di Francesco è stata una cosa che ha dato tanta forza. Io lo devo ringraziare di questo. Per quanto riguarda me, la forza è stata data in quel senso di vergogna che io ho avuto come mamma per quanto è capitato. I ragazzi invece come si sono comportati? Quando sono stati accompagnati davanti al giudice hanno riconosciuto le loro responsabilità. Posso dire che hanno accettato, pur rimanendo sconvolti per la sospensione da scuola che privava del rapporto con i propri compagni, di una quotidianità, sconvolti, ma hanno accettato. È stato iniziato un percorso di maturazione per cercare di far capire e riparare in qualche modo il danno fatto, sia nel periodo di sospensione della scuola, con attività di volontariato, rivolto alle persone bisognose. Poi, quando è iniziato il processo, i ragazzi hanno, attraverso la messa alla prova, hanno iniziato ad avere un'attività con dei bimbi e ragazzi down. E perché nella vita si può sbagliare e l'importante è non perseverare, ha dichiarato il padre dell'aggredito. Grazie ai miei nostri ospiti Stefano Rodotà, ex garante della privacy, grazie a Edoardo Segantini, giornalista di 7, che ieri ha firmato un fondo sul Corriere della Sera, grazie a Paolo Nuti, presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider, un tema che verrà approfondito anche da Enrico Pagliarini in 2024 in onda sabato alle 16, voi potete votare fino alle 13 e ci risentiremo lunedì mattina.